@radio24. Buonasera da Marta Cagnola e da Giulia Crivelli. Ebbene sì, ogni tanto ci piace parlare di cinema, lo facciamo volentieri, ma anche perché andiamo volentieri al cinema. E ultimamente un film ha colpito molto la nostra immaginazione, ci è piaciuto in modo particolare. In particolare Giulia, appena uscita dal cinema, mi ha mandato un messaggio: dobbiamo dedicare una puntata di English 24 a Carnage di Roman Polanski. Conosciamo tutte le traversie infinite di Roman Polanski. Questa settimana si è fatto vedere a Zurigo, 2 anni dopo l'arresto, ma insomma a presentare questo film a Venezia sono stati i suoi attori. 4 attori, perché Giulia, lo ricordiamo, è una storia di 2 coppie di genitori in pratica. Sì, è proprio tratto da una pièce teatrale di Yasmin Reza, perché sarebbe francese. È una vera e propria commedia che tra l'altro è venuta anche in Italia l'anno scorso qui a Milano. Mi ricordo che uno dei 2 interpreti maschili era Alessio Boni, altra mia passione. E quindi insomma il cerchio tra passioni si chiude. Abbiamo detto, a Venezia non c'era il regista, ma c'erano gli attori. Allora abbiamo recuperato le dichiarazioni in occasione proprio della mostra del cinema di Venezia di una delle protagoniste, intanto Kate Winslet. I suppose when you are a parent and come from a very big, very close family like I do, I think it's just part of your emotional makeup. I suppose I have found myself subconsciously drawn to these types of stories that include everybody. They include every family member. They include the complexities of a family dynamic. And being a parent myself, I'm familiar with school playground politics and how complex that can be, and sometimes how ridiculous that can be. And so when Roman approached me about being involved in God of Carnage, first of all, when Roman Polanski invites you to join him in any project, you really don't say no. Avevamo dedicato un'altra puntata a Kate Winslet. A me piace sempre molto come parla Kate. Qui, secondo me, spiega in modo molto chiaro come è nata la dinamica di questo Carnage, anche riferendosi alla sua vita privata. Tra l'altro lei ha un accento chiaramente inglese, I suppose when you're a parent, però è interessante, io l'ho visto sia in italiano che in originale, perché lei nel film ha effettivamente un accento americano non fortissimo, e infatti alla fine del film appare la scritta Dialect Coach for Miss Kate Winslet, cioè lei ha avuto un allenatore di dialetto, perché comunque ha dovuto trasformare, ha voluto probabilmente, o Roman Polanski le ha chiesto di parlare con un accento più americano, perché nella trasposizione di Roman Polanski questa scena, questo interno di due coppie si svolge a New York, e lei spiega che insomma è una storia che alla base c'è un disguido tra 2 bambini, e quindi dice quando si viene da una grande famiglia come la mia, very big and very close family, è come se I found myself subconsciously drawn to something, essere attratti da qualche cosa. È una conseguenza naturale del fatto che ho familiarità, I am familiar con tutte queste dinamiche di famiglie. Being a parent myself, e lei stessa è una mamma. To be familiar with, avere familiarità con, lo diciamo anche in italiano, anche se in inglese è molto più usato, in italiano suona un po' pomposo, invece in inglese dire I am familiar with something vuol dire proprio, cioè la conosco bene questa cosa, l'ho vissuta. Quindi lei è una mamma, tra l'altro mamma di bambini abbastanza piccoli, quindi questi playground politics, cioè tutto quello che succede, soprattutto la gestione delle dinamiche tra bambini, quindi una sorta di appunto politica del parco giochi, tutti i genitori bene o male la conoscono, perché si litiga, perché ci si rapacifica, perché c'è chi fa la spia ai genitori, chi fa la spia al maestro, ecco tutte queste cose qua. E lei era attratta dalla storia per tutte queste ragioni. In realtà comunque qualsiasi cosa le avesse chiesto Roman Polanski, secondo me le avrebbe detto sì. Sì, ma infatti lo dice chiaramente: when Roman approached me about being involved in, quindi to be involved in, essere coinvolto in qualcosa, esattamente come in italiano, when Roman Polanski invites you to join him in any project, you really don't say no. Quindi non si dice di no a Roman Polanski prima ancora che spieghi qual è il project, che in questo caso era appunto God of Carnage, il dio della carneficina, che poi nel film ulteriormente semplificato è diventato Carnage, carneficina. 2 attori maschili, perché sono 2 coppie, cominciamo ad ascoltare cosa ha raccontato Christoph Waltz. We worked together on different parts. So to be different and to have different approaches is extremely helpful. And that's actually, when I saw the movie, that was one thing that I got excited about, is that we maintained our individual ways until the end. La difficoltà di girare un film corale per i grandi attori, beh, insomma, è qualcosa di più complesso, perché sono delle grandi individualità che sono costrette a condividere un set, ma non solo umanamente, anche dal punto di vista recitativo. Loro come hanno fatto? Era avere ovviamente delle parti diverse. To be different, cercare di essere diversi, and to have different approaches. Cioè era importante, evidentemente Polanski li ha anche aiutati molto in questo, immaginate, perché sul set erano in quattro, più Polanski, più i tecnici, nient'altro, perché è come stare a teatro davanti a queste due coppie di bravissimi attori che recitano questa commedia. E quindi, dice Christoph Waltz, proprio perché tecnicamente nel film non c'era varietà, dovevano essere differenti loro, quindi was extremely helpful di avere questo different approach per rendere interessante il film. Una cosa che effettivamente li ha resi molto felici con questa espressione che noi troviamo sempre, che ci teniamo sempre che venga tradotta bene, cosa che non sempre succede ad esempio nei film e nelle serie TV: I got excited about. Ecco. Non è necessariamente eccitato, anzi non è. No, tra l'altro immaginate la scena, perché anche gli attori che recitano il film tutto spezzettato, quando poi lo vedono tutto insieme è una sorpresa anche per loro. Quindi I got excited about vuol dire che mi ha fatto veramente piacere, che mi ha reso felice, che mi ha reso contento, che mi ha entusiasmato, non eccitato, che purtroppo per noi, purtroppo insomma, in italiano suona sempre un po' più univoco come significato. Invece to be excited in inglese appunto vuol dire uno stato di euforia, ma perché per esempio vedi ti rivedi sullo schermo e ti piaci. E cosa avrà invece dichiarato John C. Reilly? Ascoltiamo anche lui. I just tried to play the circumstances as real as possible and be as honest as I could with the character, and hopefully it would end up being funny. There are many points when we were shooting. In fact, I think the majority of the time we didn't feel like, well, that was certainly funny. You know, we just, you know, these people aren't meant to be going through somewhat of a traumatic experience with each other, so the comedy would come later. We all just kind of trusted that Roman would put it together in a way that would allow an audience to laugh. Questo è uno dei grandi misteri del cinema. Noi vediamo i film già completati e i film sono già completati nella mente del regista prima di venire girati, ma gli attori devono fidarsi in gran parte, hanno la sceneggiatura in mano, ma devono fidarsi del regista. Poi tra l'altro è interessantissimo questo punto di vista, perché qui appunto invito voi ascoltatori a andare a vedere il film e farvi la vostra idea. È come se John C. Reilly partisse dal presupposto che il film è effettivamente divertente. Beh, sta a voi, probabilmente magari qualcuno l'ha vissuto veramente come una comedy, però in realtà, come lui stesso dice, non è esattamente un film comico. Ma comunque lui dice: I try to be as real as possible and to be as honest as I could with the character, che è un po' quello, con parole diverse, che dice Waltz. Qui tra l'altro sentite l'accento americano fortissimo, no? As honest as I could with the character. E il suo è un personaggio molto diverso dall'altro uomo, anche questo lo vedrete, e dice hopefully it would end up, mentre recitavo le mie battute in questo modo onesto e reale, speravo che venisse fuori come una cosa divertente. Erano persone che dovevano passare attraverso un'esperienza traumatica, però loro si sono fidati perché sapevano che cosa aveva in mente Roman Polanski, sicuramente una cosa diversa dal dramma puro, e così effettivamente è stato. O comunque, insomma, così pensa John C. Reilly, perché effettivamente Roman Polanski su questo film non ha detto moltissimo, probabilmente da tanto tempo preferisce così non parlare per non essere frainteso. Ma comunque John C. Reilly dice: people are meant, cioè quello che si suppone, quello che il significato del testo è che queste persone to be going through, attraversino una somehow traumatic experience. Perché, come vedrete, sì, ci sono dei momenti di grande ilarità dovuti per lo più all'alcol che bevono, ma in realtà si scambiano delle, e vengono fuori delle cose, anche grazie all'alcol, che sono per l'appunto drammatiche, traumatiche, e quindi un pomeriggio traumatico. Però appunto Roman l'ha messo in un modo in modo da permettere anche alla gente di ridere. Insomma, l'attore lo spiega così, effettivamente è complesso questo film per chi non l'avesse visto. Quindi lui lo dice, cioè the comedy would come later, cioè era tutto sulle spalle di Roman Polanski il fatto di mettere insieme queste quattro performance così different, come ci ha spiegato Christopher Waltz, in modo da che the audience would laugh, che comunque poi chi lo vede al cinema rida. E in effetti ci sono dei momenti in cui si ride, lo ammetto. Poi secondo me resta un film drammatico, non traumatico, ma drammatico, non esattamente una comedy, però insomma qui veramente ribadisco per la terza volta, andate a vederlo perché poi è molto bello confrontarsi magari con chi lo vede con voi e capire a chi è sembrato che cosa. È sabato sera, quindi potrebbe essere un suggerimento per la serata. Dobbiamo salutarvi qui ringraziando Fabio Cantadori in regia, ricordandovi il nostro appuntamento con English 24 in edicola, ma anche con la nostra pagina Facebook. Da Marta Cagnola e Giulia Crivelli, l'augurio di una buona serata.